con Francesca Corona, co-direttrice della 14ª edizione di Shore Theater a Roma in 5 diversi luoghi dal 6 al 14 settembre 2019. Francesca, ben trovata. Buongiorno, ben trovato a te. Raccontiamo a chi ci ascolta cos'è Shore Theater. Shore Theater è una manifestazione, un festival multidisciplinare che esiste a Roma da 14 anni e che è nato al Teatro India, quindi in un luogo molto particolare e caro alla comunità teatrale romana e non solo, e che poi negli anni ha avuto un nomadismo sempre più o meno nella stessa area della città, quindi si è installato e ha trovato casa alla Pelanda, uno dei padiglioni del mattatoio di Testaccio, tenendo chiaramente alleanze strette col Teatro di Roma, nello specifico col Teatro India, ma anche per alcuni progetti di grande formato con l'Argentina, e quest'anno inaugura una nuova casa, una nuova sede, che è quella di WeGill, che è il nome che è stato dato dalla Regione Lazio agli spazi dell'ex WeGill, quindi l'architettura fascista che ospitava la gioventù italiana del Littorio, quindi uno spazio carico di segni oscuri e problematici e che stiamo utilizzando come occasione di risignificazione dei luoghi chiaramente con un atteggiamento antifascista e anticolonialista, grazie all'alleanza di artisti, teorici, e tutti i cittadini e le cittadine che abiteranno questi spazi. Quindi teatro, danza, performance, molta musica, anche pensiero, teoria e laboratori. Come si articoleranno queste giornate? Allora, abbiamo le nostre due sedi principali, saranno appunto WeGill, che ho appena descritto, per i primi 2 giorni del festival, 6 e 7 settembre, e poi ci trasferiamo alla Pelanda dall'8 al 14 settembre. Queste sono le due sedi principali, nel senso che le abitiamo in tutta la loro complessità, quindi con delle giornate piene che vanno dalle 18 del pomeriggio fino a notte fonda, e poi con delle puntate importanti all'Argentina 8 e 9 settembre con Alessandro Sciarroni, un coreografo magnifico che abbiamo ospitato già tante volte e che quest'anno ha appena ricevuto il Leone d'Oro a Venezia per la danza. Poi Teatro India, dove oltre a tutta la parte laboratoriale del festival che porta il nome di Tempo Libero, ospiteremo Angelica Lidl, che è la maestra quest'anno delle cose maestre, e poi Amici da Tempo, Carrozzerie Notte, un'altra delle sedi del festival di quest'anno, che da martedì 10 a domenica 15 settembre, quindi addirittura sorpassando la durata del festival, ospiteranno De Florian Tagliarini con una performance dal nome Scavi. Che caratterizzazione avete voluto dare a questa 14ª edizione? Il sottotitolo di questa edizione è Visione d'insieme. Siamo arrivati a questo sottotitolo. Shore Theater ha sempre un sottotitolo e in qualche modo non è un sottotitolo tematico, cioè non è il tema del festival e non è il tema sotto il quale raccogliamo le proposte artistiche, ma è piuttosto qualcosa che desumiamo dal programma che si è formato. Quindi è un sottotitolo che viene informato dalle suggestioni degli artisti, dalla loro immaginazione, dai luoghi, da come ci muoviamo nella città. Sicuramente la possibilità e anche la difficoltà di includere uno spazio come l'ex Gil all'interno del programma, quindi tutto lo sforzo che abbiamo fatto per capire come posizionarci e capire se una pratica curatoriale artistica ha la capacità, oltre che il dovere, di risignificare questi luoghi che portano questi segni così ingombranti, problematici e poco affrontati, almeno in modo serio, da parte della nostra comunità cittadina e nazionale. Quindi sicuramente la questione dell'ex Gil informa un po' tutto il festival, lo informa perché riaccende in modo chiaro, responsabile e decisivo l'atteggiamento del festival, che è un atteggiamento che attraverso l'arte, attraverso gli strumenti che conosce, che quelli sono dei linguaggi artistici, prende una posizione politica chiara, che ha una posizione politica di atteggiamento nei confronti delle comunità, del mondo e del ruolo dell'arte. Quindi sicuramente questo è qualcosa che percorre tutto il festival, ma lo percorre appunto oltre che nelle tematiche, davvero nell'atteggiamento con il quale includiamo, con il quale cerchiamo di avere una visione d'insieme più complessa, profonda e curata anche nei dettagli possibile. Possiamo dare delle cifre nel complesso? Quanti sono gli eventi in programma? Abbiamo una quarantina di compagini artistiche invitate, da includendo in questo numero le compagnie, gli artisti singoli, gli artisti visivi, i concerti, quindi una quarantina di proposte, un'intensità come al solito del festival che propone circa dalle 5 alle 6 proposte quotidiane, quindi insomma un festival che lavora su un'intensità quotidiana, su anche temperature diverse all'interno della stessa giornata, in cui si passa da incontri filosofici a clubbing a spettacoli, cioè delle varie discipline dello spettacolo dal vivo. Quindi insomma è un intenso viaggio, così da vivere tutto d'un fiato o attraversarlo potendo scegliere quotidianamente attraverso gli spazi, anche una possibilità tra l'altro di vivere dei luoghi romani anche in un altro modo, perché lo stesso Mattatoio di Roma non ha una vita quotidiana legata allo spettacolo dal vivo, legata alla performance, quindi è sia conoscere e affrontare lo sguardo degli artisti, sia quello di una modalità di stare insieme, di radunarsi, che è molto specifica del nostro festival. In conclusione, diamo dei riferimenti web per maggiori dettagli? Assolutamente, sul sito shorttheater.org c'è tutto il programma con le schede dei singoli spettacoli e chiaramente i canali Facebook e Instagram, nei quali aggiorniamo e diamo tutti gli approfondimenti al pubblico su tutti gli artisti. 14ª edizione del Festival Short Theater, visione d'insieme a Roma dal 6 al 14 settembre 2019. Un saluto e un ringraziamento alla co-direttrice artistica Francesca Corona. Un abbraccio e in bocca al lupo, a risentirci presto. A presto, ciao.